Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Un sogno distrutto. I coniugi Luigi e Gabriella De Ambrosi, 73 e 63 anni, di Casale Monferrato, non potranno riabbracciare e riavere per sempre la loro figlia, che nel 2010 gli era stata sottratta quando aveva appena 35 giorni e data in adozione a causa di una denuncia per abbandono rivelatasi poi del tutto infondata. Tutto questo dopo 9 mesi dalla sentenza favorevole della Cassazione nel giugno del 2016. La Corte Minorile d'Appello di Torino ha confermato lo stato di adottabilità della bambina, che ha quasi 7 anni e che dunque resterà con la nuova famiglia con la quale già vive da tempo. In sostanza, hanno detto i giudici, non può essere restituita alla famiglia naturale perché l'abbandono ormai fa parte della storia della bambina e non si può tornare indietro. I tribunali, nel corso di questa dolorosa battaglia giudiziaria, avevano sostenuto che padre e madre non erano adatti a svolgere il ruolo genitoriale perché anziani e sbadati, sentenza confermata nel 2013 dalla Cassazione. Ma dopo il ricorso della coppia, nel giugno dell'anno scorso, è ancora la Suprema Corte a riaccendere le speranze, dando loro ragione. L'abbandono non c'era stato e la legge non prevede limiti di età per chi intende generare un figlio, sentenziarono i giudici, rinviando gli atti alla Corte d'Appello. Quest'ultima frase è quella da cui oggi deve partire la nostra discussione. La legge non prescrive limiti di età per generare un figlio. In realtà, finché uno può generare figli. Io potrei anche a 99,99 anni, ammesso che non abbia usato le scatolette di tonno, che ieri sono state allucinate dalla trasmissione di Riccardo Iacona, che accorcerebbero il pisello di 1 centimetro ogni somministrazione e renderebbero gli uomini sterili, potrei comunque generare un figlio. La vicenda della coppia di Casale Monferrato è nota perché è all'onore delle cronache questa mattina e tutti i commentatori in prima pagina dei giornali commentano il paradosso. Questi due coniugi sicuramente attempati hanno comunque generato una figlia, una vicina li ha visti lasciare la figlia qualche minuto in macchina per portare la spesa a casa, naturalmente inviperita li ha denunciati per abbandono e la bambina gli è stata tolta. Sono passati 7 anni di vicende, ora lui ha 75 anni, lei ha 63, a tutti effetti la legge ha dato a loro ragione, non erano genitori distratti, potrebbero in teoria aver avuto la figlia sempre a loro carico e attenzione da quando l'hanno generata e lei partorita, ma ormai la figlia da 7 anni è in cura delle famiglie adottive, quindi hanno pensato bene i giudici di non distogliere la bambina ormai da questo suo iter familiare. Quindi i due genitori, lui 75enne, lei 63enne, non possono avere la loro bambina. Chiusa la vicenda, non ne voglio più parlare di questa vicenda, non mi interessa, ma mi interessa quello che voi pensate. La legge non pone limiti, quindi è inutile che guardiate la foto di due coniugi attempati, facciate i conti contando sulle 10 dita, lui ha 75 anni, la bambina ha 7 anni, beh, pensate un po', quando lei ce n'ha 15, lui quanti ce n'ha? Più di 80 anni, pensate, una ragazzina ventenne avrebbe un padre novantenne di cui occuparsi, ma com'è possibile? È un abominio. Posso essere anche d'accordo o non essere d'accordo. La legge non prescrive i limiti. Se riuscite in qualche maniera, comunque, tra quelle lecite, tra quelle che comunque vengono applicate facendo dei viaggi della speranza all'estero, a fare un figlio, potete farlo. Beh, detto questo, secondo voi qual è il limite? Chi oggi stabilisce il limite? Quando scientificamente si sta osservando che in realtà i giovani sono sempre più sterili, i maschi soprattutto. I maschi giovanili devono andare a ricercare gli spermatozoi residui come si andava una volta col retino ad acchiappare le farfalle. La maggior parte delle persone che si sposano giovani poi devono fare viaggi ovunque, cure ormonali, siringoni rinvigorenti. Perché? Perché non riescono a generare, i maschi non ce la fanno più, non so qual è la ragione. Gli anziani ancora ce la fanno, magari con qualche aiutino ce la fanno. Beh, esiste un limite, bisogna porre un limite, oppure naturalmente ognuno fa i figli come, quando vuole e smettiamo di scandalizzare. 800 24 0024, a tra un istante. Melog, cronache meridiane. Un bambino! Non avevo mai visto tanta eccitazione. Carla passava dalle braccia di una a quelle di un altro senza posa. Io mi sforzavo di sorridere e di partecipare all'allegria, ma qualche cosa non mi andava giù. Non capivo perché, ma qualche cosa mi stava sul... Sì, signori, questa è una notizia colossale! E tu, nonno, che cosa ne pensi, eh? Oh, ragazzi! Nonno, ecco che cos'era. Nonno. Prima Poldo mi porta via la figlia e adesso mi fa nonno. Carla dovrebbe andare dal dottor Barnes, che la cura da quando è nata. Guardate come poi la percezione della realtà muta con il mutare dei tempi, con il nostro evolversi, con il cambiamento della percezione della realtà che abbiamo con il passare del tempo. Questo è un film del 1951, Papà diventa nonno, in cui Spencer Tracy è un nonno a suo malgrado, insomma lui non tollera il fatto che la figlia sposata le abbia dato un nipotino, una nipotina, adesso non mi ricordo bene com'è, non vuole essere nonno perché per lui essere nonno significa essere vecchio, quindi si rifiuta naturalmente dell'idea di poter essere nonno, finché gli rapiranno questa bambina scomparirà improvvisamente, farà i conti anche col fatto che può essere nonno. Considerate, in questo film Spencer Tracy ha molta, è molto più giovane di me, quindi vedete che nel 51 comunque un uomo cinquantenne, perché i figli si sposavano giovani, in realtà sentiva l'onta di dover essere nonno. Oggi un uomo cinquantenne va a Medjugorje a fare le processioni per avere un figlio. Oggi i nonni vogliono essere genitori, quando una volta i genitori rifiutavano di essere nonni. È un bel paradosso. Matteo, buongiorno. Matteo in ascolto, prenda il telefono, lo metta vicino all'orecchio, se no vabbè, Matteo non risponde. Quando prenderemo, eccolo Matteo, finalmente. Sì Matteo, mi senti o non mi senti? Beh, niente, Matteo probabilmente aveva qualcosa da dire sui genitori anziani, ma i suoi riflessi poi non sono così vivaci. Vuole dire che per lui è una follia aver tolto il figlio a questi genitori, un torto gravissimo. Ho già detto, non voglio entrare tanto in merito a questo tipo di sentenza. Voglio ragionare sul fatto se secondo voi esiste un limite oggettivo al poter generare figli e allevare figli. Nanni, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti, ma io volevo semplicemente constatare come in questo paese una persona per lavoro può guidare un tir sull'autostrada fino a 66-67 anni o salire in edilizia su un carro ponte da me a 20 metri d'altezza e magari sfracellarsi perché ha un giramento di testa, perché a quell'età ci può anche stare, però per fare un figlio magari viene ritenuto inadatto. Quando poi noi sappiamo che oggi come oggi tanti bambini vengono letteralmente cresciuti dai nonni di fronte all'assenza di asili, di servizi, eccetera, eccetera. Beh, lei ha iniziato con una riflessione, devo dire, di una saggezza unica che non ho letto in nessun giornale oggi. Lei ha ragione, non avevo nemmeno riflettuto su questo aspetto. Io mi siedo davanti a questo microfono con la mente totalmente sgombra da ogni preconcetto, da ogni pregiudizio, perché voglio scoprire attraverso l'opinione di chi mi ascolta quelli che possono essere eventuali percorsi alternativi. Ha giusto, ha ragione Nanni, è vero, a 70 anni uno può fare l'operaio, salire su un traliccio, a 70 anni uno può guidare un'automobile, anche un tir, come dice lei. Perché non può allevare un bambino quando oggettivamente una parte cospicua dei nostri bambini vengono allevati dai nonni? Ha fatto una riflessione corretta. Matteo, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Il suo punto di vista? Vabbè, mi trovo totalmente d'accordo con l'ascoltatore che mi ha preceduto, ma il discorso come dovrebbe fare un passo indietro. Da una parte non dovremmo dire quale l'età massima per avere un figlio. Al limite, cioè se ce lo dà Nostro Signore, qualunque età è giusta. Diciamo che in questo caso e in altri casi Nostro Signore ci lascia anche fare un aiutino, perché a 60 passa anni è un po' più difficile, capito? Fino a che età fare le cure per avere figli? Questo è molto discutibile, ma l'ascoltatore precedente assolutamente. Guardi, io penso, guardi, il mio pensiero. Vado, non è una trasmissione che ha né giuridica né scientifica questa, ma mi è capitato spesso parlare con medici che fanno questo tipo di terapie. Loro dicono: ma finché c'ho un utero in grado di gestire una gravidanza, un ovulo, glielo metto dentro, questo succede. In teoria, più si va avanti nel progresso scientifico, è più facile che donne anziane possano comunque gestire la crescita di un figlio dentro di loro e possano partorire e possano poi allevare un figlio. Certo, esistono alcuni concetti che vengono messi in dubbio. La sacralità di un'iconografia che vede una mamma giovane con un padre vicino, una sacralità del senso che si vede crescere i figli assieme a dei genitori che in qualche maniera hanno tra di loro una differenza di età scalabile a secondo l'epoca, ma non si è mai arrivato a vedere una donna anziana con un bambino che lo partorisce o un padre molto anziano, anche se chi si rifà ai valori sacrali della nostra religione fondamentale fondante, i profeti, i padri fondatori del nostro pensiero religioso, i grandi personaggi della Bibbia hanno i figli in età avanzatissima, quindi era abbastanza normale, però l'avevano con donne giovani. Il fatto che donne anziane possano avere i figli, forse questo è il grande tabù su cui dobbiamo noi veramente interrogarci. Manuele, buongiorno. Manuele. Buongiorno, salve, sì. Nicoletti, buona giornata a lei. Allora, io volevo dire questa cosa qui. Allora, intanto il discorso del disattenzione, no? Del figlio lasciato in balia di se stesso. Io lavoro nella ristorazione, la posso assicurare che quando magari vengono famiglie, anche giovani, con il locale, con figli a carico, eccetera, vengono e lasciano transumare questi bimbi. Sì, nel caso dei due genitori Casale Monferrato sembra mai logico che era un pregiudizio di un vicino che ha detto, vedi, hanno lasciato un minuto in macchina, l'ha subito denunciato. Secondo me, mi scusi, se l'accusa di poca attenzione nei confronti del figlio è caduta, la signora secondo me dovrebbe essere anche denunciata per diffamazione. Poi, e quelli saranno fatti loro, può essere che lo facciano, non è detto di no. Comunque secondo me andrebbe denunciata. In altra cosa volevo dire, adesso lei faceva la riflessione, intanto l'ascoltatore, il primo che ha parlato, secondo me dovrebbe essere ministro del welfare per la riflessione. Sì, una saggezza che mi ha colpito così di impatto. Molto, molto, veramente una persona in gamba. E un'altra cosa, lei diceva delle coppie, magari uno più giovane, l'altro anziano, eccetera. Mi è venuta adesso su questa riflessione mentre lei lo diceva, attendevo al telefono. Ma nel caso in cui uno dei due genitori, quello giovane che ha procreato, ha avuto un coito naturale, no? Magari questa cosa è il peccato primordiale di quella coppia di anziani, che non è nato da un coito questo figlio, ma da una fecondazione assistita. Questo ci sta, ma secondo me ci sta ancora di più. Dobbiamo essere sinceri. Aspetti, poi la faccio parlare, Emanuele. Il vero problema non è il padre anziano, è la madre anziana. Del padre anziano non si è mai scandalizzato nessuno. Clooney avrà due gemelli a 55 anni, più o meno quanti ne aveva questo signore e quanto ha generato. Adesso non so, Charlie Chaplin ha avuto dei figli in età avanzatissima. Nessuno si scandalizza se è il padre anziano. È la madre con qualche ruga che desta qualche ribrezzo, probabilmente, nel nostro sentire comune. È questo, secondo me, il problema, è d'accordo? Sì, io sono d'accordo con lei, anche perché, se come diceva prima, magari il genitore padre è anziano, il genitore donna è giovane, questa genitrice viene a mancare in me per una disgrazia, un incidente, una cosa facciamo? Togliamo il figlio del genitore più anziano? Cioè, siamo veramente alla follia. Secondo me il peccato, loro hanno commesso il peccato, diciamo, primordiale di non aver avuto questo figlio tramite un amplesso, insomma, ma con una fecondazione. Sì, questo ci sta molto, ma ancora di più ci sta l'idea della cattiveria dell'osservatore, dice guarda, quella vecchia ha osato fare un figlio. È come se a un certo punto una donna dovrebbe considerarsi essiccata al 100% e non ha diritto né di avere comunque una sua sessualità, perché anche la sessualità degli anziani ancora è molto tabuizzata. Noi possiamo parlare tranquillamente di sessualità con animali da cortile e desta meno scandalo che parlare di due anziani che ancora hanno un'attività sessuale, ma allo stesso tempo giustamente la donna deve essere in età giusta per fare un figlio. Ma può essere che magari questa è soltanto una mia lettura malevola di un pregiudizio che non c'è. E Francesco, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. Mi chiamo Francesco, chiamo da Verona, ho pensato di chiamare perché io sono figlio di genitori anziani, cioè io sono nato nel 74, mio papà era classe 1923, reduce di guerra della divisione. Quindi quanti anni avevano, forse fa prima, quanti anni avevano i suoi genitori quando lei è nata? 51 il papà e 39 la mamma, che all'epoca era un'età a rischio per partorire nel 74. La mia testimonianza è che comunque io sono cresciuto normalmente, mi sono laureato, ho trovato lavoro. Ecco, quando ero al liceo mi è capitato che al ricevimento genitori mi dicessero: ma sei venuto coi nonni? Vabbè, io ho dovuto già a 18 anni fare i conti con i loro problemi di salute, perché la mamma è sempre stata invalida, perché poliomielitica da quando era bambina, per cui ecco, sono stati delle aggravanti, però voglio dire, non li cambierei con niente altro, cioè il papà è già mancato da 12 anni, però non cambierei mai i miei genitori, per cui io dico, in questo caso quella figlia è privata dei suoi genitori ingiustamente. Quindi lei non avrebbe difficoltà a dire: a 50 anni posso generare un figlio, 50, cioè, 60, finché ce la faccio, se mi va lo faccio. Infatti infatti lei prima faceva una domanda in trasmissione, diceva qual è il limite, visto che la legge non lo pone. È quello, ecco, io direi il limite è la natura. Ovviamente in questo caso loro sono andati oltre, perché hanno fatto una fecondazione assistita. Però ci troviamo di fronte a una bambina che c'è, quindi se io dovessi consigliarlo a priori direi lasciamo che il limite sia la natura. La natura. Allora, ci sono persone di 20 anni che non possono avere figli senza un intervento, diciamo, esterno, loro sono condannati a non averli, quando magari invece basta lavorarci un po'. Sai, il principio di natura è come un elastico, ognuno lo stira come vuole. La natura, che vuol dire la natura? Capisce? La natura, la natura vuol dire anche semplicemente affidarsi a delle cure ormonali, allora vuol dire forzare la natura, o semplicemente cercare il momento proficuo per farlo, vuol dire forzare la natura, o anche semplicemente farsi dare un aiutino se uno non ce la fa, vuol dire forzare la natura. Che discorso. Poi quando il figlio nasce, io mi ricordo, guardi, l'età me lo permette, quando nacque il primo bambino in provetta e cresceva, e veniva guardato come un alieno, questo è nato in provetta, come se fosse senza anima, qualcosa di diverso a noi. Oggi è inconfondibile capire. Guardi quante coppie hanno gemelli, io non ho mai visto tanti gemelli come in questa epoca. Il gemello che nasce in maniera così ricorrente è chiaramente esito di una cura particolare contro la sterilità, ma nessuno pensa che i gemelli sono diversi dagli altri figli, sono degli esseri abnormi. Perché? Perché fanno parte comunque del fatto che l'umanità si progredisce anche attraverso alcune tecnologie che gli permettono di restare presente su questo pianeta. Ci fermiamo un istante, tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. A me sembrava una piccola mummia, tutto grinzoso com'era. Presto, Sandro, prendilo così, così. Sì, ma anche idea. Un minuto. Ma perché volete un minuto? Ecco qua. Oh, no, no, no, no, no, no, Carla, me, no, no, no, Carla. Sorridi al nonno, su. Lo vedi, è inutile, io non so che cosa... Giralo, in modo che gli si veda il viso. Niente, Spencer Tracy odia quel bambino, ma non perché lo odi, perché è cattivo, perché lo fa sentire vecchio. È scalato di un posto nella catena dell'umanità, è diventato nonno, non ammette di diventare nonno. Quell'essere grinzoso gli ricorda di essere nonno. E oggi quel padre grinzoso ricorda a un bambino di essere figlio. È un paradosso. Su questo paradosso io oggi chiedo al pubblico, secondo voi c'è un limite d'età per generare, mettere al mondo, allevare figli, visto che la legge non lo prevede, visto che la vicenda di Casale Monferrato è finita in maniera paradossale, ma nasce da una denuncia pregiudizievole di un vicino che dice: ah, quei due vecchi sono rincoglioniti, avete visto, hanno lasciato il bambino in macchina. L'avessero lasciato dei genitori trentenni, non avrebbe fatto caso, anzi sarebbe andata lì a aiutarli a portare le borse della spesa. E tutto questo nasce una vicenda dolorosa, perché alla fine la bambina starà con genitori adottivi e queste due persone avranno il senso alla loro vita stravolto completamente. È da una vicenda processuale che è finita in maniera paradossale. Franco, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto, buongiorno, l'ascolto. Allora, io ho 65 anni, la mia prima bimba l'ho avuta a 50 anni. Vabbè, non è tanto 50 anni. Non è un'età. Io comunque sono un nonno papà, perché quando vado a scuola molte amiche mi considerano il nonno. Sì, ma io penso che da qui a 10 anni saranno tutte persone con i capelli grigi che andranno a prendere i figli nelle classi elementari, o saranno persone colorate caffè latte variamente che andranno a prendere figli piccoli alle scuole elementari. Certamente che però non mi trovo. Sua moglie, posso chiedere a sua moglie quanti anni aveva? Era sua coetanea? 10 anni meno di me. Quindi sua moglie l'ha avuto a 40 anni, che oggi è diciamo la normalità, una quarantenne che si riesce a sistemare un po' la vita, a trovare un lavoro e decide di fare un figlio. Le quarantenni oggi sono madri, anche se primipare attempate e definite secondo una definizione clinica, ma lo sarebbero già a 30 anni, secondo me, qualcosa del genere, non so, adesso non ricordo il termine esatto, ma in realtà è normale. Quindi eravate allora più o meno nell'anno, avete anticipato di qualche anno un trend che oggi è frequente. Lei si sente, lei si sente in qualche maniera osservato per il fatto che un 65enne prende una 15enne? Osservato sicuramente, anche perché non ho un aspetto molto giovanile. Questo non toglie che la cosa la vivo molto bene. Certo, io sono nato, sono diventato adulto, e da adulto ho conosciuto il computer, però non appartengo all'era dei computer, sono un padre, credo di... Lei diciamo è generazionalmente vecchieggiante ideologicamente. Mica ci sta, uno è libero di vivere come vuole il tempo della contemporaneità. Questo secondo lei crea dei problemi alla sua bambina? Vabbè, no, c'ha 15 anni, fra 2 anni penserà tutt'altro che avere il padre che la porta a scuola. Certo. Quindi ci andrà da solo a scuola, sarà risolto il problema. Chiaro, grazie. Roberto, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Senta, io similmente, ma con qualche anno in più, del mio predecessore, ho avuto il bimbo a 58 anni. Oggi ne ho 67 e ha 8 anni. Ma per me è stata, siccome ho due figli molto più grandi ovviamente, questo secondo matrimonio, ho vissuto la paternità in maniera molto completa e molto dolce, questa seconda volta. Sua moglie, posso chiedere l'età di sua moglie? Così? Sì, ha 20 anni giusti meno di me. Quindi è una persona, diciamo, matura, con una donna molto giovane. Sì, insomma, relativamente, oggi comincia ad avere anche lei i suoi anni, però il problema, ripeto, ho vissuto questa... Scusi, lei l'ha avuto a 58 anni, sua moglie ne aveva 38, ma sì, era una ragazza. Rispetto a un 58enne, che è un uomo, oggi non si può dire un vecchio assolutamente, ma è un uomo grande di età, capito? Non mi sento neanche tanto. Sì, però vecchio, vede Roberto, io mi piacerebbe che a questa trasmissione chiamasse l'800240024 anche qualche signora. Finora chiamano soltanto uomini che sono fieri, contenti, soddisfatti, gratificati. Ma è chiaro che un 58enne gratificato con una donna di 20 anni meno di fare un figlio si sente presente, riproiettato in un'età che sembrava sfuggita. La capacità generativa dell'uomo, molto più estesa rispetto a quella della donna, fa sì che un uomo anziano, un uomo grande, adulto, con una donna molto giovane, potrebbe avere il piacere di sentirsi nuovamente giovane. È un grande regalo. Non è il problema della moglie, il problema è il figlio che mi fa sentire giovane, perché devo stargli dietro in alcune cose, nuota, fa un sacco di attività, eccetera. Per cui devo stargli dietro, io ringiovanisco dietro a lui. Ma io penso, guardi, se lei avesse avuto dei figli in età molto giovane, oggi farebbe il nonno, avrebbe lo stesso bambino della stessa età in cura e in adozione, cioè praticamente, cioè i suoi figli direbbero: nonno, tienci il nipotino che abbiamo da fare. Quindi sostanzialmente non cambia molto. Però io a questo punto, visto il tono delle telefonate, sono molto curioso: perché non chiama qualche donna? Perché non mi raccontate l'altra parte del problema? Perché io sono convinto che un uomo di età sia contento, si senta in grado, senta forte. Ma una donna di età che ha un figlio, come si sente? Si sente osservata, si sente rigenerata, si sente gratificata? Qual è il motivo? Questo lo voglio sapere. Chiami qualche donna. Diego, buongiorno. Buongiorno a te. Non so se riuscirò a ottenere telefonate di donne, però ci provo. Diego, sentiamo lei. Eccoci, buongiorno a lei, Nicoletti. Sì. No, io ho un'esperienza di mio zio che ha 84 anni, quindi ha battuto tutti i record, un figlio di 20, mia zia ha avuto il figlio, mi sembra, a 55 anni. E non ho mai visto un ragazzo più in gamba, più onesto, più corretto di mio cugino, insomma. Quindi l'ha avuto a 65 anni. L'ho avuto a 65 anni. Però ci sta che un uomo a 65 anni ha una sua ancora attività sessuale. La moglie ha avuto un ritorno di fiamma inimmaginabile, accadeva così una volta. No, non è questione di ritorno di fiamma, è questione che il sistema, io ho sentito la trasmissione e chiaramente mi sto adeguando al tenore, è che stanno negando l'affettività alle persone, avere dei figli, avere degli affetti e quindi delegare amore è un concetto che oggi lo stanno reprimendo con tutta la forza del mondo. Però paradossale, lei noterà che c'è invece un movimento agguerritissimo sul rilancio del valore della famiglia, la famiglia, l'integrità della famiglia, la famiglia naturale. Queste non sono famiglie, secondo lei? Sì, no, vabbè, ma questi movimenti che vengono fatti sono spesso strumentalizzati dalla politica. Io parlo di sentimenti che si vivono all'interno di una famiglia e che prescindono da tutte queste... cioè, i suoi zii sa sentirono di fare un figlio, sono riusciti a fare un figlio, e ben venga il figlio, cioè perché non dirsi di no? Stavano quindi, insieme, si volevano bene, volevano fare un figlio. La coppia di Casale Monferrati, io poi non l'ho seguita la storia nella sua totalità, ecco, non so quindi il motivo per cui il figlio onestamente glielo hanno tolto. Gliel'hanno tolto, gliela spiego il motivo, perché 7 anni fa loro scendevano dall'automobile per portare la spesa a casa e hanno lasciato qualche minuto il bambino in macchina, mentre nel, non so adesso se il cortile, una vicina che ha visto ha subito chiamato la polizia per abbandono di minorenne e la macchina giudiziaria è partita, gli hanno tolto il figlio, l'hanno affidato ad altre coppie, alla fine dopo un iter giudiziario si è capito che non avevano abbandonato nessun figlio, era normale avvicendarsi nel posare le borse, quindi la vicina aveva esagerato per pregiudizio, perché secondo lei... Hanno commesso un vero e proprio crimine. Oltretutto adesso i figli che vengono tanto strumentalizzati, si consente a coppie omosessuali di adottarli, di fare la fecondazione eterologa, di poterli fare dormire con loro, cioè il concetto intrinseco di affettività è stato completamente smontato dal sistema. Quindi una coppia che ha un figlio che gli viene di fatto sequestrato. Guardi, le dico subito, è un elemento in più. La prima sentenza che gli aveva tolto il figlio era molto dura. Dice, per avere un figlio, scrissero i giudici allora, hanno applicato in modo distorto le enormi possibilità offerte dal progresso in materia genetica, rivelandosi poco attenti alla condizione del nascituro. Cioè, quindi hanno impropriamente forzato la natura. Mi dica se questa non è una sentenza infarcita di superstizioni e ideologia. Luigi e Gabriella non si sono mai posti domande sul fatto che la bambina si ritroverà orfana in giovane età, prima ancora sarà costretta a curare genitori anziani, che potrebbero presentare patologie più o meno invalidanti proprio nel momento in cui giovane adulta avrà bisogno del sostegno dei genitori. La sentenza, ideologicamente sicuramente connotata, dice questi giovani, questi sciagurati personaggi hanno pensato che sarebbero diventati vecchi con una bambina giovane. E oggi, in effetti, le foto dei giornali di questi due signori, che mostra a tutti gli effetti una coppia attempata, lui ha 75 anni e lei 63, sembra quasi essere messa per fare orrore, vedete, questi due vecchi pretendono di avere una bambina. E in realtà il pregiudizio c'è: la vecchiaia è una malattia invalidante, la vecchiaia è qualcosa contro natura, i vecchi non devono comunque fare attività che non competono ai vecchi, senza considerare, come ha detto il nostro ascoltatore prima, che oggi un vecchio, fra virgolette, settantenne, può guidare un autotreno, può salire su un palco, può fare l'operaio, e non si capisce perché nel sacro ruolo di padre non può applicarsi con la stessa con lo stesso sdoganamento sociale. Ci fermiamo un istante, riprendiamo fra un secondo. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta Melog, cronache meridiane. Era il suo bambino? Oh, no, è di mia figlia, è mio nipote. Dove l'ha perso? Nel parco, e nel suo carrozzino. L'ho lasciato solo per un istante e non c'era più. Ah, solo per un istante? Beh, forse un minuto o 5 minuti, non lo so. Ero andato a vedere dei ragazzi che giocavano a pallone. Scordandosi del nipote, eh? Beh, sì, per un momento. Ah, bravo, complimenti. Le affidano un bimbo e lei lo pianta e se ne va. Ma cos'ha nel cervello, le mosche? Oh, ma come si permette di parlare? Piuttosto, ha sentito che cosa ho detto? Ho perso un bambino, una creatura, capisce? Ma si muova, faccia subito qualche cosa, al telefono, con la televisione, ne dico notati. Il bambino ha 5 mesi. No, sei, credo. E porta un affarino bianco, lei lo sa che cosa parla, no? E sa, ha anche una cuffietta, credo. Di che colore ha gli occhi? Scuri, neri, blu. È sempre la vicenda del 1951. Spencer Tracy, nonno suo malgrado, si perde il nipotino al parco dentro la carrozzina. Perché? Perché si vergognava di portarlo in giro, se ne stava in disparte e scompare. Poi lo ritroverà, va alla stazione di polizia e dico, ma come, si per lei un nonno che abbandona il figlio? Esattamente l'opposto, la condizione speculare. Vedete come è cambiata l'umanità, la percezione comunque dei ruoli e delle missioni e del senso della vita in qualche anno. Adeguiamoci al tempo in cui stiamo vivendo. Ho chiamato ad appello le ascoltatrici e mi hanno risposto. Caterina. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io sono stata una primipara molto attempata, ho avuto il mio primo figlio a 43 anni, primo e unico figlio. Non ho mai avuto difficoltà di nessun genere, non mi sento nonna, anche se io scherzando dico di essere una mamma nonna, anche perché l'aspetto mi aiuta non sembro più anziana delle altre mamme. Non è tanto avanti, 43 anni alla fine oggi, diciamo, è un pochino più della media. Le quarantenni oggi fanno figli a bizzeffe. Sì, una mia amica ha avuto la seconda figlia a 48 anni e nessuno si è scandalizzato. Molte mie amiche infatti hanno avuto figli da grandi. La cosa che rilevo è che quando si è un po' più avanti negli anni probabilmente si dedica più tempo ai bambini e anche quanto ha sua figlia adesso? Quasi 11 anni, ma si dedica più tempo anche con più, come si può dire, con più disponibilità, perché cioè non si pensa di privarsi di qualcosa, perché magari si è già vissuto una propria vita intensa prima e quindi si ha più tempo da dedicare anche... Lei dice una cosa giusta, avere un figlio molto da giovane è bello, perché poi uno si toglie il pensiero, poi il figlio cresce assieme al genitore giovane, però è difficile poi rinunciare a parte della propria vita. Le coppie molto giovani infatti si giocano tutto sul fatto ci sono i nonni, perché la loro vita giustamente non vogliono rinunciarci. Oggi è difficile imporre un sacrificio, rinuncia a qualcosa perché c'è un bambino. No, vivo comunque la mia vita, tanto ci pensano i nonni. A questo punto i nonni sono emancipati, questa è la chiave di questa trasmissione. I nonni hanno detto tanto vale, ce li facciamo da noi i figli, che dobbiamo allevare quelli dei nostri figli, ce li facciamo da noi, quindi sono figli nostri al 100%. Forse proprio questo. Tiziana, buongiorno. Buongiorno, signor Nicoletti. L'ascolto. Niente, io volevo soltanto dire che sono figlia di due persone già avanti con gli anni. Alla mia epoca, io sono nata nel 1958. Mia madre aveva già 40 anni, mio padre 13 di più. Allora è considerato una cosa abominevole, penso, nel 58. Sì. E anche, vabbè, l'unica cosa, io sono nata settimina e allora hanno... Pensate fosse figlio di un altro padre magari, qualcosa del genere? No, non credo. Ah, perché? No, perché assomigliavo molto a mio padre, quindi... E l'essere settimina cosa significava? Che vedi, settimina erano i bimbi indaco, bimbi speciali. E quindi dice, vedi, perché è nata di settimina, perché, esatto, perché la madre era anziana, ecco, colpa della madre. Mia madre aveva quasi 40 anni, allora era una cosa, anche se io poi ho due fratelli molto più grandi di me, perché diciamo che sono nata forse per sbaglio, ecco. Forse. Sì, è il tipico colpo inaspettato. Sì, mio fratello più piccolo ha 16 anni. Sì, anch'io penso avere un fratello nato da questa cosa qui, perché succede che a un certo punto si pensa che si può andare tranquilli, poi erano epoche in cui ci si affidava molto al caso, diciamo la verità, e il caso in realtà vuole che, guarda caso, si è andata, diciamo, la provvidenza ce l'ha mandato, che a un certo punto stavi tranquillo. Comunque, e non ci stai più. La mia esperienza di vita anche con due genitori, diciamo, avanti con gli anni è stata bella, cioè, non si è sentita diversa che hai genitori giovani, quindi fondamentalmente no, ma quello non mi è importato, perché mi hanno fatto apprezzare cose che dopo, un po' più grande, ho detto guarda, mi hanno dato l'amore per la cultura, per la lettura, per l'arte, quindi forse i ragazzi più giovani non l'avrei presa. Beh, ed effetti si hanno dei genitori più formati, anch'io, esatto. Se devo dire, la mia formazione l'ho avuta grazie a una nonna, che stavo più tempo con mia nonna, ma non perché fossi trascurato dai genitori, perché aveva più tempo, più elementi, certo. Era per lei divertente perdere tempo con i nipoti, i genitori sono affannati da mille cose, i nonni per i nonni è come una missione, e stiamo, esatto. E stiamo osservando una mutazione proprio antropologica nella struttura della nostra società. A un certo punto i cosiddetti nonni, che possono andare in vacanza, possono fare sport estremi, e possono far l'amore, possono mantenersi tonici, hanno detto beh, allora tanto vale che i nipoti diventano nostri figli. Antonio. Ah, buongiorno Nicoletti, io volevo semplicemente dire che non sono d'accordo col primo ascoltatore, nel senso che hai 70 anni, guidi un camion, è una cosa tua, vai su un tetto, è comunque una cosa tua, hai un figlio, è una responsabilità. Una sfortuna a tutti e due i genitori nonni, chiamiamoli genitori nonni, genitori anziani, questo qui può rimanere da solo da un momento all'altro, teoricamente, mentre sono d'accordo che i figli tirano sui nonni perché i genitori magari non possono e devono lavorare, ma se vengono a meno i nonni, comunque nel bene o nel male ci sono i genitori. In questo caso non c'è nessun paracaduta. Ma quindi qual è il limite secondo lei a questo punto? La natura. La natura. Ma senza, che vuol dire la natura? Aiuto, no, senza l'aiuto. Scusi, ma allora faccio tecnologia. Un esempio: una coppia con lei cinquantenne e lui sessantenne fanno l'amore. Lei non sospettava che fosse, che rimanesse ancora qualche residuo di ovulazione, e fanno un figlio. La natura ha fatto ci il suo. Sta. Ci sta. La natura fa. L'importante non fa delle. L'importante è che nasca da una scopata, ma non nasca da qualche forzatura. Ecco, questo è il problema. Esatto, è il suo punto di vista. Questo è il suo punto, lo rispetto. Rimangono tutti i pregiudizi prima, però, perché la stessa cosa potrebbe avere dei genitori vecchi, però l'ha mandato la natura, quindi è lo Spirito Santo che ha aiutato, e quindi bisogna affidarsi al corso della natura. Sono punti di vista, mica lo contesto, mi fa un po' sorridere, ma mi sta bene. Fabio. Buongiorno Nicoletti, buongiorno agli ascoltatori. Niente, il mio intervento si concentrava fondamentalmente dalla parte del bambino. E io ho un cugino che ha 43 anni adesso, io ne ho 47, e è stato maltrattato dalla sua famiglia quando aveva pochi anni, e la mamma poi è morta di parto e il papà si era trovato un'altra compagna, e il papà di mio nipote, di mio cugino, gli hanno tolto il bambino, quindi mio cugino è stato coi nonni sempre. E fino all'età di 30 anni praticamente non ha mai avuto voglia di conoscerlo, poi dopo di avere contatto, e poi dopo adesso si è avvicinato, quindi chiama i suoi fratellastri, fratelli, chiama suo papà, e però vive ovviamente da solo, la sua vita è sposato. Allora io quello che mi chiedo è, mi sembra, visto dalla parte di un figlio, sempre comunque la propria famiglia, quella che si chiama famiglia, il resto sono tutte cose che possiamo chiamarle come uno vuole, però c'è sempre questo richiamo di sangue, non so se mi sono spiegato. Sì, ne prendo atto, perché c'era una consapevolezza, una conoscenza storica della propria famiglia, persone che sanno che la famiglia che li ha sempre allevati, in realtà è una famiglia adottiva in età molto avanzata, non fanno questa distinzione. Suo cugino evidentemente sapeva che è una famiglia d'origine, l'aveva conosciuta, ha avuto questa esperienza, e nel passare del tempo è quella che sceglie. Velocemente Giovanni, poi chiudiamo. Buongiorno a tutti, vorrei intervenire semplicemente in questo modo, permettendo che chiunque potrebbe essere in grado di crescere bene un figlio purché lo faccia con amore. L'unica domanda che mi pongo e che giro a voi tutti è questa: in tutta questa trasmissione ci siamo chiesti i diritti dei genitori, sostanzialmente, di avere dei figli, dentro quale età, ma io pongo un'altra domanda, sia il diritto dei figli, cioè qual è il loro diritto di avere dei genitori, di quale età? Nel senso, a me pare ragionevole. Sì, la sigla mi porta via, la sua domanda è chiara, le rispondo in maniera velocissima. Il diritto dei ragazzini è di avere comunque un genitore che si occupi di lui, che gli voglia bene, che lo porti possibilmente in maniera dignitosa verso l'età adulta. Non farei un problema di tipo età, perché altrimenti dobbiamo dare un numero, e il numero ancora non è uscito. Qual è il numero esatto? Non si sa. Alla prossima.